sicuramente potrà assistere a un bellissimo festival con musica dal vivo, DJ set, sound system, come dicevamo, anche tornei sportivi, ma ovviamente la musica rimane il principale elemento che caratterizza il festival. Quest'anno abbiamo i Sud Sound System, un gruppo storico fondatore della musica reggae ragamuffin in Italia. Ci saranno gli Zion 3, un gruppo dall'Inghilterra molto importante, un sound system altrettanto importante, Northern Lights, tantissimi nomi, ovviamente anche un po' i protagonisti della scena reggae e hip hop di Bologna, che insomma insieme a queste star internazionali e nazionali si alterneranno sul nostro palco. Cerchiamo di unire un po' la dimensione di Bologna con quello che è il mondo e quello che ci circonda, quindi troverete questo. Voi vi sentite portatori di un messaggio importante, soprattutto in un momento come questo, no? Dove è difficile parlare di integrazione, di pace, in realtà senza far rumore se non quello della musica. Certo, certo, è molto complesso sicuramente, ma lo abbiamo sempre fatto con molta semplicità, cercando di dare protagonismo, cercando anche di narrare magari il fenomeno migratorio in un mondo dell'integrazione, non semplicemente come un mondo che ha bisogno di assistenza, ma che ha bisogno di protagonismo. E quindi abbiamo dei protagonismi, abbiamo degli amici che da tutto il mondo, oltre ai volontari, anche ragazzi rifugiati, ragazzi che appartengono alle cooperative, che insomma lavorano in questa zona d'Italia, verranno con noi a costruire questo festival. Quindi diciamo un momento di protagonismo, non solo un momento diciamo di divertimento, di socialità, ma soprattutto di protagonismo di questi soggetti. Con voi la domenica, per quanto riguarda lo sport, ci sarà un'altra realtà importante e storica del territorio, che è quello dei mondiali antirazzisti. Vabbè, è chiaro che i mondiali antirazzisti rappresentano diciamo il festival dell'antirazzismo, ancora prima di Rhino Splash, ma ci siamo avvicendati e siamo diventati uniti appunto nel portare questo tipo di messaggio. Quindi è molto importante la presenza dello sport antirazzista, di quel mondo, e quindi insomma siamo felici di stare insieme a loro e di continuare con loro questo percorso. Che risposta si vuole dare agli sviluppi recenti della politica italiana, come ad esempio il rifiuto di Salvini di voler accogliere in Italia il barcone di migranti provenienti dalle coste africane? Beh, Rhino Splash in quanto festival, in quanto realtà, ovviamente in quanto esiste, ha una posizione diversa e differente ovviamente rispetto a chi dice che non ci debba essere l'accoglienza, questo è ovvio. Noi davvero vogliamo puntare su questo elemento, è un momento di protagonismo anche dei migranti, anche dei solidali, ecco, non è semplicemente un momento in cui noi andiamo ad aiutare, a servire, ad assistere qualcuno, ma è un momento di protagonismo vero, dove si costruisce qui in Italia, per tutti i cittadini che vengono, un momento di condivisione pubblica. E ci sembra che costruendo momenti del genere si possa dare la vera risposta a chi dice che non è possibile fare queste cose. Diciamo, poi ovviamente questo è un festival e non vogliamo entrare in considerazioni più approfondite, perché chiaramente, ripeto, è un festival, ha un momento di socialità, è un momento di svago, è un momento di ovviamente dove le persone pensano e si riuniscono, però è evidente che proprio la natura del festival, i protagonisti del festival, coloro che lo creano, sono loro stessi, fanno un atto politico in un certo senso rispetto al tutto, cioè fanno vedere com'è possibile costruire un momento di intercultura vero insieme a tante persone da tutto il mondo.